Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Arizona, 8 agosto 2012. Un'insegna attira l'attenzione di una donna. Pistole in affitto. La signora li chiama per uccidere il marito. Pronto? Parlo con l'agenzia Pistole in affitto? Sì? Ottimo. Ho trovato il vostro numero di telefono per caso su una vecchia copia di un quotidiano. Questa mattina mi sono decisa a lavare i vetri e mentre stavo appallottolando un po' di carta di giornale, ecco che, come per magia, mi cade l'occhio sull'annuncio e mi son detta, guarda, guarda, che sia un segno del destino. Io chiamo e così la facciamo finita una buona volta. Insomma, sarei interessata a una vostra, diciamo, prestazione. Parlo con lei o mi deve passare il capo? Come sarebbe il capo non c'è? È uscito forse a farsi un whisky? No, no, per carità. A quest'ora del mattino lo so anch'io, bere alcol e deleterio. Non me lo dica. Se mi faccio un vermouth non riesco neppure a mettere sul sugo per la pasta. Comunque, in considerazione del vostro settore d'azione, ero convinta che qualche superalcolico facesse parte dei ferri del mestiere. Anche nei telefilm, per dire, quelli come voi sono sempre lì che sorseggiano uno scotch liscio o un martini con l'oliva. Sì, sì, ha ragione, vengo al punto. È molto semplice. Immagino che per voi si tratti di un classico. Vorrei far fuori mio marito. Come sarebbe, cosa intendo dire? Farlo fuori? Sopprimerlo, spedirlo negli eterni pascoli, mi sembra chiaro come concetto, no? Perché vede, giovanotto, io non lo sopporto più, forse anche lui non mi sopporta, ma mentre mio marito con le sue navi in bottiglia riesce ad estraniarsi dal problema, io invece no, proprio no, non lo sopporto, lui e le sue collezioni. D'altra parte, se non ci fossero state le navi in bottiglia, il nostro matrimonio sarebbe già finito da un pezzo. E poi finché c'era Stefania, mia figlia, io, come dire, avevo uno scopo, una ragione. Insomma, non devi mica essere un etologo per capire che la sopravvivenza della prole giustifica molti sacrifici per noi madri. Riuscivo a sopportare. Mentre mio marito si passava le sere e i giorni festivi a infilare modellini di veglieri dentro le bottiglie. Contento lui, mi dicevo. Poi il caro ragionier Rinaldo, cioè mio marito, è andato in pensione. Stefania se n'è semplicemente andata e io sono entrata nel tunnel. Divorzio, dice? Cosa crede, che non abbia proposto un divorzio? Ma lui non ne vuol sentir parlare. Sostiene che la nostra età è tardi, che ci copriamo di ridicolo, per non parlare dei soldi. Soldi spesi in avvocati. Ha sempre avuto il braccino corto mio marito. Lo voglio morto. Dove abito? Per ora mi sembra prematuro parlarne. No, guardi, io non ho bisogno di aiuto psicologico, io ho bisogno di un sicario. Dove è adesso Rinaldo? Rinaldo chi? Ah, sì, certo, mio marito. In questo momento non c'è, è andato al Brico Center a comprare la colla per i veglieri. Quello fino a questa sera a casa non torna di sicuro. E sa cosa le dico? Che se non accettate l'incarico, quando rientra magari trovo il coraggio e ci penso io, senza farla tanto lunga, un bel colpo in testa con una delle sue bottiglie e voilà, anche simbolicamente funzionerebbe. Dove mi trovo in questo momento? A casa mia, perché? Dove abito ancora con questa storia? Allora è proprio una fissazione la sua. Comunque se ci tiene tanto glielo dico, corso Tassoni 522, interno B, ottavo piano, suonare Cafasso. È contento adesso? Beato lei che è contento. Io invece no, io ho l'idea di svegliarmi per quelle poche mattine che mi restano ancora da vivere con mio marito nel letto, con le sue abitudini, sempre le stesse, sempre nello stesso modo, sempre alla stessa ora, e tutte quelle bottiglie, l'odore della colla, guardi, allora piuttosto preferisco buttarmi dalla finestra. No, non è uno sfogo, giovanotto, è un incarico. Siete o non siete l'agenzia Pistole in affitto? Sì? E allora non interrompa, mi lasci parlare, prenda appunti. Come sarebbe comparse? Non voglio una comparsa, voglio un killer vero, un professionista. Guardi che pago quello che c'è da pagare. Ho una bella cifretta da parte, buoni del tesoro svincolabili. Pensavo di tenerli per il matrimonio di mia figlia, poi però lei... ma questo gliel'ho già detto. Naturalmente mi dovete fare un preventivo. Sono certa che troveremo un accordo. In fondo è un lavoro facile. Lo farei io stessa, se non fosse che, non essendo del mestiere, potrei fare degli errori. Sa, a una certa età la mira è quella che è. Poi mi manca il ferro, la rivoltella, insomma. Ci sarebbero poi alcuni particolari da stabilire. Per esempio, all'occultamento del cadavere, ci pensate voi? Perché vede, io, visto che ci siamo, preferirei evitare tutto il rituale post-mortem, un po' per l'imbarazzo di dover fingere dolore intorno alla salma, un po' per i costi dell'inumazione, no? Funerale, tomba, fiori, messa cantata, che mio marito, tra gli altri difetti, è pure un baciapile, per dire. Mi scusi, ma adesso la devo lasciare. Stanno suonando alla porta. Strano però, non aspettavo nessuno. Rosa Mogliasso, in libreria con La felicità è un muscolo volontario. Salani Editore, 266 pagine, 14,50 €. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce d'autore, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, sul blog Storiacce, su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.